me, Giuni. Ehi, Trommi, Trommi. Tutti morti sono. No, mi sto guardando la TV. Però l'avevo già vista, l'ho spento. Quel programma Alaska. Ma io mi sono morto tu pure, Carmen. C'era poco gente chiamandosi, boh, graziare il lupo. Non si graziare che era il torneo. E allora è che io sono a 30 in occhi. No, questo l'ho acceso adesso per lui. Ho capito. Che l'ho acceso adesso. E infatti, dormito ieri, no? No, mi stavo guardando la TV, quel programma Alaska, dove c'è il ghiaccio, quelli che vivono da soli e vanno a caccia. Ma quello di oggi l'ho già visto, la Niada. Sono tutte cose che hanno già dato, sempre le stesse cose stanno andando, capito? No, c'era niente roba di nuovo, capito? Solo la mattina c'è roba di nuovo. No, all'inizio c'era che sta imparando a un altro che è andato, ha deciso di andare a vivere lì e c'è uno di quelli che lo sta imparando, no? Come si deve comportare, a camminare con quelle zatte nei piedi sulla neve, a chi gli sono bebone la prima volta. E ce lo sta imparando come si mettono le galle, le trappole per prendere gli animali che si mangiano e farsi le pellicce, poi si rivendono le pellicce, no? Beh, io ho visto sempre le stesse cose, capito? Programma nuovo, beh, forse magari perché questo periodo lo sto guardando, Prima lo guardavo molto spesso, ma adesso ho visto che c'erano sempre le stesse cose, non l'ho guardato più. Io sono un paio di mesi che non lo guardo. Per dire, quello che vive con la moglie adesso è solo, e c'è questo qua che lui lo sta imparando, quello che ha una bella casa grande che si arrangia a fare tutto questo. Poi c'è quella là che hanno fatto che vive sola, che rifornisce gli aerei. Quella è andata, si è comprato una macchinetta per andare sulla neve e quello è la vecchia, la mia data, e dunque l'ho spento, l'ho già visto due volte, oggi me la faccio, dicendo, quello l'ho già visto. E va, fin là li cambieranno piano piano, adesso c'è questo nuovo che sta imparando, poi faranno vedere anche questo nuovo, si fa buona caccia. Beh, ogni tanto già fa piacere a guardarli, dai, e per cui io prima li guardavo molto spesso, però adesso da parecchio non li guardo, però li guarderò senz'altro. Adesso magari in estate forse metteranno qualche cosa di nuovo, vediamo un po'. Può darsi, ieri me l'ho guardato, è quello di ieri, quel ragazzo che c'è lì, che quello è sposato, vive con la moglie, è andato a caccia di lupi e invece gli ha mancati tre lupi, e però ha pizzicato una volpe bianca, ma non sai quanto era bianca, la volpe delle nidi, bianca, bianca, bianca, e non so quanti dollari vale la pelliccia, sui 4.000 la pelliccia, e sono belli di là, la bella scogliata, bella, bianca, bianca la pelliccia. L'ha bello lavorato tutto e si fa dei dinagoli bellicci, anche un prezzo. E loro con questo li si comprano l'attrezzatura che le serve, le cartucce, qualche cosa di cucinare, però a maniare a se lo bucare da lì. Lo credo bene, se li bucare. È una roba buona, una roba genuina. Ho visto varie volte anche quando quelli lì che prendono le scuola bus vecchi che nel rispiazzo fanno delle casette, hai visto di tutto, le moto che li rimettono a posto, capito? E fanno cambio, qualche altra cosa, anche quelli sono belli a vedere. Anche quello l'ho visto l'altro giorno, però quelli stanno dando di nuovo quelli che ha dati. e dalla roba vecchia di creani e dei rifugi. L'altro giorno hanno fatto un rifugio bello con tutti legno vecchio di un coso da dove si metteva il fieno anni prima. L'hanno demolito e hanno fatto in collina, proprio si vedeva tutto il panorama, un bel coso per quando vanno a caccia lì e si divertono. Ma lo sai che bello che è? Caspita! Sì, ne fanno in tutte le maniere, capito? Anche i container, hai visto qua che trasformano i container, fanno i saluti, catta le casette belle, fanno veramente bene, fanno dei lavori formidabili con la gente, catta. Boh, nemmeno ce ne immaginiamo le cose fatte dalle robe ficche. Hai visto, poi si danno anche il tempo, massimo una settimana, 5-6 giorni, non di più, deve essere tutto finito. E travagliano il burro di notte con i rifari, già l'ho visto già, e fanno lavori belli anche. E sono benditi dalla mondezza, creano un sacco di cose, poi utilizzano tutto, si inventano di tutto. Eia, eia, aspetta, hanno suonato, grazie, già ti chiamo io. Eia. Che Mary? Permettersi. Eccale! Ma dammi che sei domani! Già sono dormito! Ma l'hai tu! Sì, che ti sta chiamando Graziano! E tabolisi! Permettersi! Dormito sono io! Ci arrivati! Oh! Permetto! Già si vede già! Già si vede! Sempre comicando sta! E allora? La garuba che prende di una uefa e prende. Per carità. Sta smontando tutto qua, lui. Smonta. Grazie alla Coppa UEFA, sì. E allora, la parte di trova con la bicchia e fa smontare nell'ampenni. E ci sto buttando tutto, grazie, sono smontando e dopo metto tutto dentro la cassetta, ce lo butto nel cassettone. La paraghi vi fa tirare rubezzo e lo lanci dalla finestra, lì chi vi dà rito li fai sabbiazzetta. No, chi posso dare, faccio il pavimento. E poi quando entra la cassetta ti conta tutto il guasciometto e almeno non lo prende nessuno, capito? Ma il faccia la roba, ma non se la buoni intriati, non se la pigliati dalla mondetta, appunto. Davvero? E allora, io non se la buono da entrare, li faccio, la gappo e se lo apro, appunto, tutto a pezzi. Sì, ragione vai, bisogna fare così. E allora, e poi con la brasca, la bagucina, la tana di pizzi. Il ferro, tutto così. Così Luca lo se ne rubiglia. Ma sarà, Luca! Ma tu sei ingagnoso, già ne puoi lasciare anche agli altri, sì. Ingolfate se. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Luca? Affari suoi! No, questo programma su Alfa. Ah, me l'ho già visto, quello del ghiaccio, dove c'è il ghiaccio. L'ho già visto quello. Guarda se per caso lì vedi uno squalo anche, nel mare. Alfa, cosa ventra che sui senza di canaleste? Ah, ho capito, no? Ma in genere anche quello sono tutti programmi già dati. Adesso poco fa stavo guardando quello che vivono in Alaska, però uno solo era diverso, gli altri sono... l'altra di maggio ho visto di romani, vedano gli squali, vedano. Ho visto anche a Torre Squalo. Davvero? E allora? Con la pinna e con la maschera. La fantasia che vai, grazie. Se vantasse così. Bebe. Ciao Luca. Ciao Gianmarie. Se vantasse così. Bisogna capire, grazie, dottore. Buonasera. Ti ha capito, non è colpa sua, eh! Ehi, va, la magna la genia, lo squallo! Che squallido, Jimmy! Cata, bubu! Ma la bella genna non l'ha abbigliata, no? È riuscita a entrare all'Atlassi in mezzo alle rocche! Squallido! E beh, cosa hai fatto oggi, Luca? Ma tira tu, lo volte a morte o la sotto sopra. Ah, non vai giù in campagna, aiutati. No, se la morte oro oggi rende i monti. Bu, falli i conti, giorni mari. Ce lo fare, se no si dorme guai. Boh, tutto questo che fai di piantare in campagna, ai vivi. Oh, Luca! Boh! Ah, campagna soia se purente, la campagna soia! Sì, ma dici la cosa che farà di fuggito quella l'erba più alta di una casetta. Tu ne hai sarroni canta e tu vera. Ho detto, da sempre, pecca che c'è Sarroni, e ridati a Riginese, si ribuccia, capito? Se te ne da isso. Ah, i topi murciati. Cuffetta. Ehi, momito sì. Momita sei tu. Momita Torre. No, ero al baracchino, ciao grazia. Chi c'è, Torre? C'è Torre Squallido. Poi c'è Gianni Maria, poi c'è Luca il cubicatore, e poi chi c'è? E poi ci sei tu e poi ci sono io. E poi non lo so. E poi c'è caldo, vabbè, avanti, ciao Gio Maria, Luca, Tore, ciao, avanti Gio Maria, riprendi. Ciao, buonasera. Tore! Ehi, a Gio Maria! Sì, che tra Trucca del Monte, avanti! Sì, buonasera Luca! Vabbè dai, io sono entrato che tanto tra un po' devo uscire. Sono stata così, ma che nascosto adesso. Io vado a farmi più bello di quello della Tadolce, se ci riesco. Ma non sarà quello che abita al quinto piano. Sarà difficile che diventi bello come lui, comunque ci provo, dai. Sì, lui. Luca, e questa voleva bagnata, mi Luca Flippero. Parido, Ah, vai, non s'acciarano. Mi faccio un po' di cocco, mi dentro la cassetta di plastica si sta spurgando bene bene, poi quando è pronto già te lo faccio sapere. Così non va da russi la graviglia, Luca. E allora, e poi domani sono di matrimonio, mamma mia, poi domani fa caldo, uia, per carità. Allora non mangiare stanotte, domani recuperi anche la notte. Ma io sono un maggio, sto male, grazie. Ma già normale, da poco a poco, e lasciati il vuoto per domani. Ma guarda, andando male, una pizza. Oh, yeah. Mie, Tore, tu non mangi la notte, è vero? Che te l'ha detto che non mangi, a chi? Cosa avevi scritto in fronte? Come te graziano, so buio, inventando con una zucchera di ratti. Ma di là, invece l'atto di non mangiare, così recuperi per domani. Se vieni sazi, se non vieni sazi, tanto vabbè, a mezzogiorno e mezza, penso l'una, dai, iniziamo, poi a finire non si sa, se finisce tardi, se finisce presto. Allora vai come te Totò, porre di una giacchetta con le busciacca rimane, ripieni di spaghetti, ripieni, come ti va di Totò. Un mosso e un pugno a busciacca. Guarda, adesso tu ti puoi andare a questo ristorante, perché è una cosa per il pubblico, dai. Io frequentavo l'ora azzurra, c'era mia madre. C'era questa signora, nella borsetta si è portato con questo contenitore di plastica. Tutto visto, pasta asciutta, tutto si buoni adretto, tutto allucinato, guarda pure un schifo questa signora. Oh, io ne ho visto uno al matrimonio, si buoni alle docce, tutti durante la borsetta. E le buone avranno arrivato, che si sono tutti frabbinati, avranno arrivato, anche le pigliava se le finiamo così in borsetta. Ci metteva tutto assieme, c'erano le favette, c'era il pollo, pasta asciutta, tutto, di tutto e di più. Vabbè, dai, mi assento. Ehi, ok, chi c'è la fame, vero Giormario? Già, è così. Ma, Tore, a chi sei? Tore! Vabbè, non ti rispondi, no, squallido. Tore, a chi sei? Giormario, riprenditela. E dai, sei da paratto. Davvero. Pippara! Pippari giù i sastri, boh! Dati le vasate, si danno. Ehi, chi ci sarà magneti? E fai come che ne magneti? Tore già bene la TV. Ehi! E tu poi sono attaccato la 27. E due 27, No, non è voglia. Non è voglia di attaccarmi. E cosa hai voglia di attaccare questo solo? No, visto ce l'ho sul tavolo, se l'ho acceso poco fa, si è trancato il ruolo, riposo, se no rimane chi. Pippara! Vai, ci deve andare a 27, mi, Giommari. No, che sto rimettendo a posto tutto, ho smontato tutto qua. Perché? Perché ci sto mettendo un mobile nuovo. E la scrivania allora non ve l'hai più? La scrivania la botta e ce la butto nel cassoletto. Ah, non rimane più scrivania come ti vedi, come si chiama. Ehi, la salada, la salada a Luca che deve fare cose stasera. E dopo gli mangia la bassa fuori per rimasta da mezzodì. No, sì, Luca deve andare, devi sì. E domani è invitato al matrimonio. Non gli ho chiesto dove sei qua, al latte dolce o al monte il matrimonio. Allora, si mangia troppo domani. E beh, se di mattina sicuramente c'è il pranzo. E chissà dove, non gliel'ho chiesto, poi si entra per domani. È roba segreta, Graziano, te ne dice che è roba segreta. Se no sei geloso da voi tu. No, così ando pure mi trallazzo in mezzo e mi posso pure io. No, che tu mangi troppo, ha detto, tu mangi troppo, sì che è meglio lo fa da. Allora canta niente, non fate così, si buono in mezzo agli ospiti, si ne trae un ristorante, si mangiano i pennelli indiani. E ci posso la magna. Dito la voce lo fa la parola fai che ci cose così. È chiaro che no, non è mica se controlli di caffè che lo fanno. Ah, io mi metto una voce, una parente di lavorare ma di mamma al matrimonio giù, l'abbia fatta a Platamona da Ernesto, un ricevimento. E mi aveva detto a me, grazie a me che mi insegna, amiche giusto. E poi la bella della dittura, no, io non li conosco, sarà nelle migliorie di qualche altro, lo sa nessuno. E poi c'erano i piccini che erano in carriera e si sono posati 30 maniaghi di brici. Capito mi hai? Ah, ti ho capito, posso immaginare. Ehi, mi dico la balaffa, ma... Attenzione, signor Tore Squalo! Allora si è andato in bicicletta con i cani! Sarai a 27! Graziano! Dimmi! Tutti sono dei parini! Sì, non fa vedere nessuno, è acceso questo! Non c'è nessuno! Cosa hai detto? Che non c'è nessuno! Sono tutti parini! Io Giammaria ha detto di chiudere la 27 e la giustizia voleva andare a 27, ho fatto problema. Si è allontanato che era un tagliente e non potevamo là. E mi dice che ho dovuto allontanare. E vabbè, là. Piazzo adesso 26. Cosa hai detto? Che io non ce l'ho accesa la 27, può darsi che sia andato sulla 27, guarda, a chi ora ci vuoi andare alla 27 vai nella 27, capito. Oh, mi sono allontanato perché è venuta gente e non mi potevo muovere da davvero. Stavo facendo della cosa. Ah, ha giovinito. E guarda se Gian Maria è nella 27. Aspetta a vedere. Ehi, da Soghinoghi. Non rispondi, grazie. Non c'è. Non risponde. Perché mi ha detto che si stava smontando con l'Ivania, a chi devi venire su mobile. Magari sarà in ascolto, sarà smontando, boh. Gian Maria, smontando stai, rispondi. Sicuramente sarà Fennigosa, boh, si è spostato da lì. Non lo so, vabbè, dai. Ehi, Luca, si deve andare alla doccia, devi esci. Luca Flipper e Cubicchini, e non c'è più nessuno. Io l'ho lasciato acceso questo, si è tragato di uno, se no pazienza. Mi sto guardando la TV. Sì, vabbè, là. Vedi che io pure mi vado la TV. Ehi, fai così, la carazzese, si è tragato di uno, e se no, già mi guardo il televisore. Mi sto guardando quelli che fanno o le case a nuovo, là, le lampade tutte la dovranno a far nuovo. A cielo è il programma. Sì, vabbè, già so che no, che grazie. Eia. E lui? Tutti morti sono. E chi è morto? Ebbene, Marino. E mica sì. Tu fa triste. Che attento, gufo triste. E mi te sei di Mary. Tutti letargo. Via. Ava mi vendo tutto. Aiuto fai l'affare. Ti vendo lo zodiaco. Con la camera ecco, le MB4. Tutto 100 euro. E boh. Ehi, ancora le... No, troppo poco. Ehi, e facciamo 120, là. A bene va. Iniziamo a migliorare, se no vado a pensare che è roba che non funziona, capito? No, ce l'avevo anche ieri in funzione. E poi prima di dartelo te lo metto in funzione. Grande affare, svendo, prezzi stracciati. Dimmi se lo vuoi. No, troppo poco lo stai dando. E quanto vuoi spendere? Almeno 2,50, allora sì che posso credere che funzioni. Quanto vuoi spendere? Almeno 2,50. Meno no, meno non te ne do. Va bene, 2,60 perché sei tu bene e va. Ok. Poi quello è un prezzo onesto. Basta che te lo do. Ti regalo anche un altro microfono. Microfono per i karaoke. E ho un altro microfono, il suo in dotazione. Pure c'è un'altra marca. Ti vendendo ciò? Perché quello è un bombò, già lo sai, già l'hai sentito. Infatti è troppo dolce, talmente un bombò. L'ho invenuto di 3 in caramelle. Avevamo asciutto le bozzate e gli sono i baliti, là, sul bongo a punto. E l'ho preso, ma nella pensione. Luca! Lei, dimmi. Pensione domani, che ora va? Non ho capito. A ritirarti la pensione, a che ora vai? Presto. Presto, alle 7:30 sono già fuori lì dalla posta. Io vado brittato anche io. Intanto a di chi c'è gente, a di tanto c'è gente, tanto vari. Senti, tra 10 mesi faccio pure l'assicurazione della macchina. Va a Napoli. a me la paghi tu. Aspetta un attimo, grazie. Ti la pago io la scolatura della macchina, a buffi. Ah, te la pago la scolatura della macchina, bello bello, te la pago. Non me la paghi tu. A buffi però me. Ehi, come ti piace, basta che la paghi. Quanto è? 500 euro? No, 250, sei andato anche bene. Ok, quando arriva l'istituto di cittadinanza già vado te lo pago. Aspetta. Pomponio. Dimmi. Ma te ne avevo dato i soldi, sì. Mi avevo dato i 29. Ma sono rimasto inculato però io, perché sono stato coglione da ritirarli tre giorni prima. Si ritira il 2 per averli tutti assieme. Ma cosa vuoi due? Tu quante volte il plan l'hai fatto? Una volta o due volte? Una volta, non hai capito, quando tu previ due giorni prima ti danno solo 100 euro in contanti. Se invece previ il giorno giusto, ne ritiri sì 100 euro in contanti, dopodiché puoi andare tranquillamente per dire a fare la spesa dello spi o dove ti piace a te e fai il resto della spesa, hai capito? E invece sono andato inchiappettato io, perché sono andato due giorni prima. Infatti non fa prelevare. Ah, appunto per quello. Vabbè, 100 euro li ho prelevati, va a far culo, va. Me ne sono tenuti in casa. Ma quando? Da poco li hai prelevati? Il 29. Il mese scorso lo stesso ha prelevato. Sì? Come mamma non mi fa prelevare? Perché se li hanno mangiati. No, non ti fa prelevare perché devi aspettare il 2. Hai capito? Deve aspettare il 2, deve aspettare. Una volta che arriva il 2 di giugno vai col banco a te per levi. Tutto domani pagano. Sì, tutto domani pagano. Il 2 pagano, per essere esatti. Ciao Luca, buonasera. Ciao Antonio, guarda che io conosco chi l'ha detto. Fregadini, domani vai che ci sono. Beh, me ne ho già prelevato 100 euro, ne ho speso 30 di spesa, cosa prelevo. Allora aspetto a lunedì, adesso mi pago le bollette della luce, quella del gas e poi è fatta. E l'assicurazione mia paga. Quando fa due mesi, quando ci danno i resi, perché è tutto bloccato, stavo aspettando che, come si dice, Di Maio gli venga lo shock in testa e ci dia il via, perché l'hanno momentaneamente in pratica tolto, perché stanno aspettando un foglio, non mi ricordo che cosa diavolo sia, digitale, in modo da dare il via per poter pagare anche quello. E vabbè, lascia perdere, già me lo paga Luca. Poi basta guardare il sito del comune, basta che scrivi reddito di cittadinanza 2019 RESE e ti appare tutto quello che c'è scritto nel comune. Momentaneamente hanno interrotto il RESE provvisoriamente perché stanno aspettando un foglio dal Ministero dello Sviluppo Economico, hai capito? Antonello, ma se prendi quella carta del reddito minimo, i ricchi non te ne danno, mi hanno detto così. No, non è così. Stanno aspettando solamente un coso, non so come spiegartelo. Stanno aspettando un qualcosa dallo sviluppo, Ministero dello sviluppo economico, dopodiché la regione, se ci sono dei soldi stanziati, li dà, se no non le dà, hai capito? Se non li danno tutti e due come ha fatto prima, tutto lì, perché c'è il reddito di cittadinanza, c'è anche il reddito familiare, il discorso è quello, hai capito? Se è stato bocciato il RES, il reddito di cittadinanza, ti danno il RES, hai capito? Ma a me non me ne danno intanto, né uno né l'altro. Ha chiesto il commissionante e non me ne danno. Che l'ho detto a te? Mia sorella lavora a pizzicotto e piglia 1.300 euro e hanno il RES familiare perché c'ha tre figli. Non ho capito. Anche i miei, io ne ho due in casa ma sono maggiorini. E tutto va bene, basta andare nel sito delle, come, dove ti ho detto io e leggi col computer. E momentaneamente sospeso, hai capito? Se no io il mese scorso ho ritirato 400 euro più i 700, hai capito? No, non penso che a me me ne diano, quello lo danno, io so che lo danno a quelli che hanno il reddito, che non c'hanno niente. Anche se c'è una piccola pensione da 500 euro già li danno, però non devi avere altro. Sì, ma siccome non abbiamo fatto il reddito di cittadinanza equivale il foglio ISA 2017, quindi c'era ancora il RES, anzi c'era il REI, poi il REI l'hanno tolta, ci hanno messo il RES a posto del REI. E siccome dura 9 mesi non sono passati, scadono a luglio. Bellette, capito? Quindi quei soldi, quei 3 mesi ce li devono dare, non ce li danno tutti e tre assieme, se no eppure in pratica non te ne danno più. Hai capito quello che ti voglio dire? E la tirano a lungo fino a luglio e da poi vanno la scusa e non ne dati a nessuno. Tutto fatto. Ah, ma io non so, me ne fai cassare a me. Meno me la fotti nulla. Vabbè, Bianco, che sto portando un aggeggio a... dall'amico a vendere, capito, per agganciare in barca. Ci sentiamo dopo. Va bene, intanto mi stanno asciugando le portate qua, ok. Devo portare un, come si chiama, uno di quelli così da Coca-Cola, amici, ce ne presenti. Quello per bere, ce l'ho qua. 20 euro. Tanto l'ho buttato qua a casa, non me ne faccio niente io. Un attimo il telefono. Eia! Ehi, papà! Andiamo bene, andiamo! Ok! Faccio pronto! Vabbè, signori, io chiudo, dai! Ci sentiamo, domani, non credo! Dopodomani, ciao! Ah, ciao! Giorni Mari! Sì, tagliere! Non ho capito un tubo! Aggiungi tu, lo ritiri domani il reddito minimo! Aspetta, il cambio... perché cambio, stiamo, non ci sento male, capito? Vabbè, cambio. Prova adesso. Faccio così allora. Luca, così fa. Oppure anche... allora... domani sì, mi lasciano fare, deve diventare grande. Faccio domani, mi devo dare i buschi. Un poco di dinà, a te immaginici. E assicurazione, buco. Sì. Ma andiamo a testi noi. Ehi, chi sugi? Infatti, prima ando, prelevo, parlo. Aspetta, diranno. Va bene, va bene. E noi l'abbiamo fatta, cambia, arrimani. E arrimare il piso non faccia. Ehi, ma troppo cosa, mamma mia, ragazzi. A rompire però non vi siamo andati, arrimani, eh. Allora, non ci siamo andati, siamo entrati a LD, cazzo, ma ho bisogno di un mese di cosa, un mese, cazzo, cazzo, la già manca, già veramente in buona sta minira, cazzo, è tutta roba pesante, vediamo domani. No, io ci ho mandato pure a me figliura stamani, io devo pigliare chi è la roba che mi manca, cioè che mi manca, che mi è finendo, tipo lo scotte, la carta igienica, qualche detersivo. Questo l'ultimo ingresso avevo fatto a cosa, a Clive, via, per Rudreno. E io mi avevo obbligato rubare 4 besce, non so che non manco che tipo di besce è isso. Non so come. Brudo, ero brudo. Dopo mi sono obbligato. No, non ho obbligato altro. Brudo ero besce. Oh, l'ha detto già, ho obbligato. chi sa carri, avranno non so quanti si chiama, che rimane tipo precotta, chissà chi vende ne ha piccata di radaglia nei cucetti fatti nei ribanini, come si chiama? Ci lascio tiro la pecora cosa, non è che mi intende di pesce io, non lo so, grazie. Non è pesce, porchetta è mi. Ah, la porchetta, non mi piace, no. Rimane troppo asciutta, no? Tanti mangiavo troppo quando viaggiavo, i caselli, per carità, i cazzo. Mi andavo se aggiù anche, non mi piace, no, grazie. No, ma poi la mette nel tegame, la condisce un po', ci mette, gli aggiunge un po' di rosmarino, le cipolline, la base così. E chissà già precotta, già cotta, però è dalla gonde un po' così, no, ma che a me mi piace. E ma che rimane asciutta, capito, no? Prima di la zia, ma non ci mangiavo troppo. Adesso viaggiavo, sì, se mi lavo una focaccia, mi lavo due o tre fetti, mi c'era pure il mezzo e tira a campare una birra e a dente, capito? Ma non ci mangiavo un meme, in grillo, ma carità, gatta. No, io la mangiavo, però una volta ne ha dato, spesso no, devi l'autogrill ma stessi. No, quella che vendono all'Eurospeed, la vendono già confezionata in vaschetta, che è buona, però prima asciutta come te tu giù. Però io dopo paoletta la condisce, no, ci metto le cipolline, oppure gli aggiungo un po' di salsa, capisci? Un goccetto di vino bianco, dipende da come te la vado. E così già andava, però di chita maniera, è asciutta. Ma mentre hai detto tu, il padetto ha fatto così, allora magari ti pensa, rimane più succiosa, là. Ed è più buona, di che da maniera come ti rabbigli, è pure bamba, l'ha già tassata io, così come ti quando l'ho pigliata. Era pure bamba, ha detto, cammina con questa cosa, sennò a me non me ne danno in manco. E poi se non la condisce rimane troppo asciutta. Oh no, oh, non mangio, no. Cazzo, prima magari sì, ma no, non mangio. Preferisco un pezzo di carne bucchito considerato da noi, cazzo, il forro, che a mangiare come te. Anche se fosse stata magari più umida sarebbe stato l'ideale, ma è troppo asciutta, allora cazzo si fa già tu cacca, no grazie. Da sempre magari piace un bene a mangiarla, a me non mi piace più. Mi migliora, mi ha telefonato e mi ha detto, ma la prendo che intanto è tardi a cucinare altra roba. Ed io ho fatto, aveva preparato la pasta e fagioli e patate, ho preparato. Anche tu. Ma lasciate un pigliato, come si chiama, dalla a far Napoli, certo. Su un pesce rosa, come se capo si diceva, però mi la metto più. Aspetta un attimo, che mi ha fatto una bauletta. Ehi! No, era il telefono, mi cugnata. No. Capito. Oggi io ci faccio spezzatini. Era buona, la carne era proprio buona, saurita veramente. Io sai più cosa mangiare, non sai più cosa mangiare, boh. L'ho fatto questa settimana lo spezzatino, mi sembra martedì, una barita manna, anzi ne è rimasta la metà e l'ha aiutata a minibutti. E l'ha guadagnato un mezzo di e l'ha rutti. L'indovale l'ha detto te, allora forse ha detto cosa mangio, te l'ho spezzato. Perché l'ho cucinato, ho pensato che ci veniva mia figlia, con l'altra mia figlia e un'amica di mia figliura, invece non mi sono accudite. Ha detto, boh, ha parlato con me nipote e mi l'ha aiutato. Faccio bene. Ciao, grido. Sì. Allora, parlo tu, vero? A chi è? Ha detto qui c'ho pranzo e cena e poi ti ha deciso, va, così mi parli. Ah, non posso più. Caffè e pega, non vai, non vai. E allora, vado preparata, poi che proprio per il burro, cazzo, non è giusto che si tocca la partita la cosa, cazzo. No, ma se vado a me lo scusa, dimmi, dalla prima, se non me lo dice dalla di prima, che mica domani non ci siamo a pranzo, a così. Invece non ti sei niente, la posso dire da manina. Caffè in casa, e poi le te posso mamma fai dalla buca, e vai. Ma, beh. Ah, va, domani, non so cosa faccio domani, boh. So che mi da... No, ma la mattina non sono impegnato, non visci. Si pare andata a cosa, a Roma Cato, a chi mi di scioperare. Io no, che la rompito per di scioperare, oh, a pigliare un po' di ogni cosa fa gli spaghetti con i frutti di mare, capito? Sì, da ci metto a casa a Nazio di farlo. Adesso questo bambino che non li mangio, risi l'ho mangiato, ma gli spaghetti no. E domani sono qui a giocare per andare, ma me lo bisogno la salita. Ti vado a cappare da Roma Cato, in macchina, a Sabi Boni. Poi la macchina in parcheggio, alzi, tira belli, torna a fare e ti si vari. A chi a Sabi Boni? Si andi chi su? Fai, entri, scimmi. A chi tanto non vedo più tutta questa gente che vira un tempo a Roma Cato. Io da poco ero andata con Paoletto. So che tra dieci, va? Ma si ha centrato. Si ha centrato, non faccio in macchina, no? Oh. Ah, chi tocca a farsi la macchina in parcheggio, per il tempo, così, e là, oh, i pilotra. Infatti, tra me ne va, sei poco. Cazzo, una mezz'ora, non è manco pure più buone. Cazzo, affari. E allora, se tra e fai prima buco. A chi vi la sotto a casa, non tratti, ne va la chiavi, non va a caldo. Quando esci, te lo do rapida e sei in casa tua. Ma, sei più buone, in mezz'ora hai fatto tutto. E va finito, boh, non lo so. Indeciso sono, ha pensato ma ammazzare quando mi ricetto. per carità. Ah, è rimasto un po' di spezzatino. E mi mangio lo spezzatino io. Manco che ti raccampa. Due pesche, una bera e una banana. A ti basta? Eia, ehi, va! Ega, troppo buono. Valetta di segni. Chi si ti bigli di là di ragazza. Chissà se di là che hanno detto che datene. Non ridatene. O ti bigli ragazza o ti bigli chi. Ma così è. Dani, conosco un bel di niente che ha preferito bigliarsi la carta. E pure la saliente che caccia non ha pigliato e la gente ne chissà se di nage datene il rischio cosa si chiama, boh. Se così allora sai cosa, E l'altro lei non l'ha detto a me non me ne date, che prova, è la capace me ne date, ma a me non me ne danno. Quelli li danno a chi hanno un minimo reddito, massimo di pigliare, se mi ci vado si consentire, allora ti ridate. E deve essere posto male i brutti bandattini, se no non te ne dati. E poi, anche se li so danni, sono controllenti, dammi da capo. Ma li sono controllenti, anche perché sono bene che non hai bisogno e fare il salvito, hai capito? Cazzo, faccio lei, ci ho trovato ricato, ma era una urlo, sono pescati, da poi non avete più nulla, E dopo mi rifate di tornare là. E infatti, chi c'è la catena che non aveva ne bisogno, che si dà ne bisigate, so c'è me naturale che si dà. Cazzo, è coraggio, cazzo, però vabbè, c'è come di cazzo. Uno che non ha bisogno, vabbè, ecco, è giusto che perdoni, ma cazzo, ma tu non hai bisogno, cazzo. sei brava niente, cazzo, sotto sotto e intanto, intanto mangiano, capito? Ah, chi sono travaglienti, te ci sono travaglienti, magari non sono assicurati, capito? E figurati che sono disoccupati e pigliano la parte dall'altra, capito? E allora, ma io l'anno scorso al capo gli ho dato tutti i tagliantini delle medicine che ho pagato, no, gli scontrini così, e mi fanno meno trattenuta di tasse, a chi sono di nagli ha dipeso ma le medicine. E gli ho dato anche il foglio di quando ero ricoverato. Quando non me l'hanno preso, mi ha mandato la lettera all'Inpisi, che io lì non ho pagato niente, che è tutto gratuito quell'intervento che ha avuto lì all'ospedale. E il ricovero eccetera eccetera, dunque a Diego sauguri a maledizio. Ma io non li sabbia, no, e la gente la gente mi ha rimandato un capo, guarda che ero anche ricoverato, ma anche quel foglio, beh sì sì, portamelo, come si maledizio io vi ho aiutato. Doveva celebrare un radio all'Ipis che ha visto la spesa dell'ospedale. Ciao, un clip, fate un radio. Niente. E vabbè, no, i bimboni niente, no, i bimboni dello Stato. E la salina dice, adesso che andate dal capo, mica l'ho ricoverato, di nuovo te lo porto quel pugno, ma pensate se puoi stare di vita. Ah, già lo sai pure tu, dove se la ritelefonata e l'ha ricattato la pistola, l'imbici. È troppo, ma in ogni maniera se ne intende, ragazzi, mi assento, grazie, entro subito. Ehi, che è? Illu. Catta. Beh, cos'è che stai combinando? Bah, niente, che cazzo c'è festa stanotte qua. Vai, vai. Senti zapparato, cazzo. E chi è la festa? Ehi, qui al circolo. Hanno già chiuso la strada. Ehi, tutti i circoli per la festa. Allora per Luca, dici. Luca? No. Complimenti. E cosa fanno a mangiare? Una decina di latte l'ha ricurta a Dudui da rimane a oggi e l'altro che ha appena arrivato e poi il menù dice coniglio. Ciao Fabi, tali putti, dai, tali putti, ti sei bruciato a casa verdi, vabbè si beriscono a casa arabia l'ha arrivato, chi si miau. Per carità, ho iniziato a combinare una, gatta. Luca, e tu a chi vai? Era per cosa ai nonchi. Andare a mangiare il miau. Ah, mi piace il coniglio con la coda. La salina, la amica di mio figlio, mi ha giubato un coniglio. Mi era bello e mi stava guardando, quando stava pranzando. E mi ha detto a te subito, perché mi sta guardando? E la giubbia di appena te l'ha fatto, musci, miau, miau. Cazzo, mi ha parato un pezzo che va via in bocca dalla bocca. E tu ci ha così sbagliato, mi sa così, al coniglio, lui. Bobo, mi sei malo, mi grazia. Ma dici, ma da poi? Figa era un gatto che ho preso da lì sotto a fanti ieri. A Giovanni le cini rocci. Ma col vino bianco io non si ne abbizza. No, che ce ne la mangiano con gusto, con piacere. Prima la dice, beh, buono, alla cacciatora, così vuole fatto il coniglio. Che coraggio, altri mangiati. A te la vedi su tu mi rapa forte. Un colpo laggiù, dai, vai che sto scherzando. da voi non ce n'era mai nemmeno con tanto guscio. Ci ridi pure, e il cacciato è grazie. Ehia! A te lo ricordi quel film Renato Pozzetto che viveva in campagna lui, te lo ricordi? La mamma l'aveva detto, ma è mai possibile che ogni volta che muore un gatto mi cucini coniglio? Ancora non sapeva che era aiata. Ehia, già l'avevo visto, l'hai dato pure da poco su film. Buono, tutto buono, ma si è allevato in casa e gli dai da mangiare, è buono sì, sai che si mangia in carriera. Guarda che io a coso, a fannat, a Napoli, a coso, a Ierzu, che chiusi a Tertenia, ecco, a Tertenia. Cadere un militare in una postazione, in un'isoletta in mezzo al mare. Ero lì, no, per punizione, è vero, 2 mesi. E c'erano i gatti dalla montagna salvati, ci parivano i tigrotti, Maria. E ripigliavami con questi gagliaritani e si rimaniava. Ma non è poche erano voi, però erano selvatici, eh. Niente, Gio Maria. Vabbè, sì, e si rivolta a Buru che l'ha mangiato, Ma io sono per più i gatti selvaggi, a chi ha rimangiato tutta la razza, gatta. Buona rete, era, li ripigliava a me, si chiamava uno Pistici e l'altro Garrone, e cagliaritani tutti e due, una faccia di delinquente, va via. Lo pigliavano con la lenza grossa e mettevano l'ancoretta di pescare, perché la volta andavamo a pescare a Castrappo così. Punivano un paio di bestiari che ti varavano, tirava la lenza e li tirava, ne ritirava senza lenza, si ricudia, 30 la marmitta, punivano un zappo e li pulia e poi li cugliava. A Cagliari è successo però, eh. Ehi, a Tertenia, questi qui. E boh, guarda che erano buoni davvero, anche il maresciallo che c'era lì, e quel tenente. A veces si romagnava, e ti rimaniano molti di fame, che c'erano i continentali. Magari se, magari non per i salvarmi allo stesso periodo, già finirà in magnaggia in casella. Sì, però chi ci diziani che erano speciali, buona vita, in effetti avevano ragione. Erano buoni, buonissimi proprio. Ma chi ci sono gli altri arechi, gli altri di campagna, di montagna, che paravano da una collina. Sono buoni, sì, infatti sono buoni. E si mangiavano tutto mangiavano, sorichi, coso, rani, cerichetti, tutto mangiavano, chissi. Pucci, gatta. Mai l'hai mangiato lui? Pure i pesci mangiavano, anche i tagliani iracoschi, dove c'erano gli scogli, i ghibi. Luca! Chi c'è piglieni, cuglieni, caffeiata, Giomari? A considerazione di saluti, non credo, Non ve li so, i superati, i gatti, no? E due ci gli buca. Gli avvinea da rete vicino un immenso circolo, laggiù qui chi vede, gli atti. Pucci. No, che prima finirà, ma di quantina finirà da rete, no? Cazzo, vedete due o tre famiglie che andavano dalle macchine ma parigliacci e tutti potevano mangiare, tutti venivano i chivi, da poi agnavano e rimanevano i chivi, una di quantina per dire, a papà ci sono fatti tre solo. I chivi per una famiglia, più davanti di 1 e 2, che attraversa la strada, in quel palazzo era color rosa prima. E che vive un frappicamuro, non so se è ancora vivo. Che a chi si che andava un bizzinotto, ma a mento, gli procuravo i gatti. Gli gatti che pigliavo, i ruati d'osso, mi si buscavo. E mi ripagava, un attimo di più. Grazie a voi, mamma mia, a un altro frappicamuro. A un ciaro da bacchino, ne aveva. e di dì a marzo domani la sera di venire a cena, comprese, le mamme farelle gli ha ve lo dico, e l'andate l'ha buttato l'invito che l'ha fatto Vito, e l'andate gli altri li buttavo io. Boh, per carità, e vabbè dai, grazie, io chiudo, che deve finire gente, per cui ci sentiamo domani sera eventualmente, dai. Buon proseguimento, saluto in casa e mi raccomando, non vi basta a fare tutta questa cosa che fa tu, fa tu figura, occhio, io ci attacco Zaeta, ciao, chiudo. Eia, ciao, a domani. Salutami a Lorenza. Senz'altro, non ti ricambia i saluti, Lorenza, mi ha al telefono la figlia, comunque ti saluta, ciao. Ciao, ciao, ciao. Chi è?